dobbiamo essere bravi noi nell'approccio alla partita, senza essere né superficiali né presuntuosi, perché la partita può essere difficile. Lei c'è una squadra che gioca a calcio, in trasferta ha fatto molto meglio che in casa, e quindi dobbiamo avere il massimo rispetto per questa squadra. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Well, did you ever hear a better message than you'll never walk alone? It's the most beautiful song in the world. Everybody feels it, everybody loves it, and everybody gets the message. In your darkest moments you are not alone. I love that. When you walk through a storm, hold your head up high. Championship winner for the eighth time, a fantastic record. Kenny Dalglish, a player tonight as well as a manager. Walk on with hope. And he scores! William for Chelsea. And that could be the goal that seals the title for Liverpool. Knowing how much Kenny supported us, it's for you as well, Kenny. You had to wait another 30 years that your club can win it. It's for Stevie, who had to wait a long time. I have no words. It's unbelievable. It's much more than I ever thought what would be possible. Becoming chairman with this club is absolutely incredible. L'ultima volta stavamo sognando di vincere il mondiale in casa, Milano era da bere, John Major era l'inquilino di Downing Street, Giovanni Capuano aveva 50 anni, aveva 20 anni. Ciao Giovanni. Sì, 50 anni li avevo, li avrò l'anno prossimo, no, avevo 20 anni. I ragazzi si sono superati, anche i ragazzi della comunicazione del Liverpool, perché quella cosa lì sì, che abbiamo sentito, è tanta roba. Pardo invece era un bambino. Io avevo 16 anni. 15 anni. Pischelletto. Senti, Radio Twitter per il Liverpool? Sì, Radio Twitter per il Liverpool, insomma, sul tema che abbiamo lungamente dibattuto, tornare a giocare, non tornare a giocare, è l'ultimo dei temi rispetto ovviamente al rispetto della salute pubblica e della tranquillità delle persone, però diciamo che anche il merito sportivo è qualcosa di importante per noi che seguiamo e che ci occupiamo felicemente di sport tutti i giorni, e ci sarebbero tante delle ingiustizie. Se il campionato fosse stato fermato, mi vengono in mente alcuni esempi anche italiani. Il Benevento è un passo dal traguardo del Liverpool per qualche stasera. Esatto, è qualche centimetro dal traguardo, e il Liverpool sarebbe stata un'ingiustizia incredibile per la stagione che ha vissuto. E devo dire che ci sono stati, l'attesa è stata lunga, ma hanno vinto con stile. Interminabile dal 90. Però devo dire che hanno vinto con stile, e c'è molto di Klopp. Sì, infatti è l'allenatore del momento. È l'allenatore del momento, tra poco ne parliamo. Intanto Nicola Roggero è già impegnato perché deve aggiungere un capitolo, io credo, all'Opera Omnia Premier League, no? Sì, peraltro si concludeva il libro con il successo del Liverpool in Champions lo scorso anno, quindi è abbastanza facile, si tratta di ricollegarsi a quel trionfo, ed è la chiusura del cerchio anche per Klopp, che fra l'altro qualcuno fino a un anno e mezzo fa definiva un perdente. Io ricordavo sempre che questo qui aveva vinto due titoli, Borussia Dortmund, e vincere in Germania. Germania, se non alleni il Bayern è sempre difficilissimo, oltre ad aver sfiorato una vittoria in Champions League con lo stesso Bayern. Sono personalmente molto contento del successo del Liverpool. Io quando vinse l'ultimo titolo nel 90 facevo il servizio civile e non mi aspettavo certo che avrei atteso 30 anni per rivedere il successo del Liverpool. Mi viene in mente che quest'anno è il centro, quindi in qualche modo la città di Liverpool doveva riappropriarsi di qualcosa che gli appartiene. È stato un titolo inutile dire merità, basta guardare i numeri, guardare la gestione, come il Liverpool. Ti sento un po' male, Nica. Provo a ricollegarmi con te. Intanto sottolineo come la prima volta, a proposito dei meriti di Klopp, che è veramente il nome ispiratore di questa squadra meravigliosa, secondo me gioca il miglior calcio del mondo, tema dibattito aperto, magari avete altre preferenze, 8-0-0-24 0-0-24, però Giovanni, la prima volta di un allenatore tedesco era d'Inghilterra, tra l'altro. Sì, ma è la prima volta di tante cose in realtà, perché quando per 30 anni non vinci un titolo in casa tua ha quasi il sapore della prima volta, anche se poi sei Liverpool, sei campione d'Europa, del mondo e sei campione di mille cose. Mi veniva in mente quello che diceva prima Nica a proposito di Klopp. Allora, chi lo dava come allenatore perdente fino a qualche mese fa chiaramente non capiva nulla di calcio e non ne conosceva nemmeno la storia recente, però è vero che il Liverpool su Klopp ha fatto un investimento, non una scommessa, perché Klopp non ha vinto subito, ha avuto bisogno di tempo per costruire insieme alla società quella squadra. Non è vero nemmeno che abbia speso poco, il Liverpool si è potuto permettere dei grandi colpi, ma soprattutto ha avuto la forza e si è potuto permettere di aspettare Klopp, di aspettare che maturasse, di andare oltre magari un paio di stagioni che non immediatamente avevano dato il risultato, e questa deve essere una grandissima lezione per tutti in giro per l'Europa e poi magari anche in Italia, voglio dire, se vogliamo fare qualche parallelismo, perché Klopp è un allenatore totalizzante che lascia il suo segno, però le torte non funziona che si cucinano in mezz'ora, le torte hanno bisogno di tempo in forno per lievitare. Sì, in Inghilterra un po' più di tempo te lo danno normalmente, hanno così una tempistica un po' diversa. Pensa anche a Ferguson, no? Pensa anche al fatto che Ferguson... ma vi viene in mente un altro allenatore totalizzante di quelli che lasciano il segno, che magari è molto discusso in queste settimane? Al di là di Mourinho, dici? No, intendo anche pensando a noi, se vogliamo provare un azzardato parallelismo. Sarri. Ma anche Conte. Conte. Sì, vabbè, ma certo, ma infatti, ma il tempo, ragazzi, il tempo e la pazienza sono due doti, la pazienza, quindi saper attendere e saper utilizzare il tempo nella maniera più opportuna è una dote fondamentale. Devo dire che l'Inghilterra negli ultimi anni si è un po' italianizzata, nel senso che molto più spesso si vedono giudizi un po' sommari e molto veloci sugli allenatori, quindi da questo punto di vista il mondo sta diventando sempre più globalizzato e la fretta vale per tutti. Però ecco, ricordo che Ferguson ci ha messo 3 anni e mezzo prima di vincere il primo trofeo con Manchester United, ormai anche quello quando eravamo ragazzi noi, quindi però questa capacità alla fine in molti casi è quella più importante, quindi questa pazienza è quella che fa poi la differenza. A ripetere, secondo me Klopp È una squadra abbastanza epocale. Torno sul fronte letterario, Nicola Roggero, ricollegato. Eccoci, non so dove ci eravamo persi dimenticabili parole. No, tutt'altro che dimenticabili, solo che ti sentivo male, avevi il telefono di Pardo o di Marchetti nei giorni belli. Upgrade totale. No, Nicola, dicevo, una squadra, possiamo definire questo Liverpool una squadra epocale? Forse poco per dire che è una squadra che ha aperto o aprirà una dinastia, però ha delle caratteristiche che sono uniche. Ce ne ricorderemo, sai, per essere epocali devi vincere per tanti anni, certo. Perché il rischio, se no, io ricordo per esempio l'Aston Villa, che è stata una squadra fantastica, è stata la più grande meteora di tutti i tempi, perché l'Aston Villa era una squadra che si piazzava intorno al 7º-8º posto del campionato inglese. Poi nel giro di 12 mesi vinse il campionato inglese, la Coppa dei Campioni e la Supercoppa Europea, e vinte queste tre cose, ripeto, nel giro di 12 mesi, ritornò a occupare un posto intorno all'8º-9º posto della classifica inglese, quindi fu una straordinaria meteora. Per essere epocale devi vincere su più anni, sicuramente questo Liverpool ne ha le capacità, perché, come sottolineavate prima, è stato costruito con grande intelligenza. È vero che sono state spese dei soldi, ma attenzione, il Liverpool, per esempio, prese Van Dijk, in questo momento per distacco il miglior difensore al mondo, rapinato del pallone d'oro lo scorso anno, perché francamente non si capisce perché non sia stato dato a Van Dijk. Per Van Dijk sono state spese 87 milioni di sterline, ma contemporaneamente il Liverpool aveva ceduto al Barcellona Coutinho per 160. Sì. Vuol dire che il Liverpool si è liberato di un giocatore che, avendo Firmino, Salah e Mané, tutto sommato non era così indispensabile, e ha preso Van Dijk guadagnandoci 73 milioni di sterline. Quindi è stata un'operazione dal punto di vista anche economico strepitosa. E poi lasciatemi dire che a questo allenatore Klopp, che non può non esaltare anche per il modo che ha di, certo, di stare al mondo, certo, non soltanto in campo. Certo. Io ricordo durante il coronavirus Klopp sottolineare in lacrime il video di alcuni infermieri dell'ospedale di Liverpool che cantavano You'll Never Walk Alone. Quindi vuol dire che c'è anche un tocco particolare di questa persona, forse è anche un po' paraculo, per carità, non dico di no, ma avere allenatori come Klopp che ci fanno capire che stiamo parlando di uno sport, di un gioco meraviglioso, ma appunto è uno sport, ecco, non in maniera, meno sentimentale, ma forse più pratica. Ricordo sempre durante il coronavirus Klopp fare tutto meno che sbraitare per ricominciare la stagione. C'è stato un momento in cui Klopp, con tutto che aveva un vantaggio siderale in classifica ed era quindi la possibile beffa si stava materializzando, no? Di non vincere il campionato dopo averlo dominato, è stato uno di quelli più calmi, più prudenti, più attenti. Questo secondo me anche lì poi vabbè ci sarà forse anche un po' di paraculaggio, io non lo so. Però poi come paraculaggine. Beh, Se posso permettermi, Klopp è anche inserito in una cultura, quella del calcio inglese, in questo momento, in cui è vero che lui non ha spinto per ricominciare, però è anche vero che c'era il dibattito tra altri club se comunque assegnare a Liverpool il trofeo, perché era talmente in vantaggio, l'aveva talmente vinto, al di là della questione aritmetica, che non andava messo in discussione. Comunque, voi lo vedete in Italia questo tipo di ragionamento. Dopo 30 anni festeggiarlo dal tinello non era... Io credo che se tu parli, abbiamo citato il Benevento, se parli con Pippo Inzaghi, ma anche 15 giorni fa, prima che si riprendesse la stagione, lui comunque fra essere promosso d'ufficio e conquistarselo sul campo avrebbe preferito la seconda ipotesi, proprio perché il caso del Benevento, come il caso del Liverpool, è talmente schiacciante la superiorità, è talmente sicuro il risultato che non è che te la rischi. Il problema di Pippo Inzaghi è che sopra aveva una Lega che aveva in parte chiesto di bloccare retrocessioni e promozioni. Klopp si misurava con una realtà diversa. Voglio dire che secondo me Klopp ha fatto una bella figura, ecco, anche nella vicenda della pandemia, del lockdown, ha fatto una bella figura, e quindi è assolutamente vero quello che dice Nicola. Poi sicuramente è anche un uomo che sa. Sta a giocare con la comunicazione, che la conosce molto bene, quindi questa è una questa è un valore aggiunto, Pier, no? È un valore aggiunto questo, perché è comunque uno che sarà paraculo ma non fa mai 0-0, e questo a noi ci piace. Nicola, ti chiedo un'ultima cosa. Prima ho detto, secondo me il Liverpool gioca il più bel calcio che c'è, sei d'accordo? D'accordissimo, io non sono mai stato tifoso del calcio di Guardiola, io nemmeno. Come dice Beckenbauer, ogni tanto arrivato sulla linea di porta bisognerebbe anche tirare, e invece mi piace straordinariamente il calcio verticale di Klopp, uno che nelle cui partite non ci si annoia mai, non ci si annoiava già al Borussia Dortmund, non ci si annoia al Liverpool, il Liverpool è veramente piacevole a vedersi, magari con qualche buco difensivo, perché quando giochi con quella filosofia ovviamente non puoi pensare di proteggere tutti i lati della collina, come si dicevano in battaglia, però gioco un calcio strepitoso, e il mio parere è un calcio dove gli stessi giocatori si divertono tantissimo. La visione più brillante andare al Liverpool non è una brutta idea, ecco. Come era un po' di anni fa, in piena era Ferguson, quel Manchester United, secondo me la visione, è vero che Klopp è tedesco, ma il suo calcio è la visione più luccicante, dell'interpretazione più luccicante che in questo momento c'è nel calcio inglese, così come nel calcio mondiale, secondo me, perché ci sono poche squadre che ti diverti vedere giocare come il Liverpool. Io sono molto d'accordo con Nicola, non a caso siamo appassionati di Premier League, anche se ho chiamato un programma televisivo Tiki Taka, sapete che io non è che consideri il Tiki Taka il modulo che mi diverte di più. Poi, per carità, ha costruito negli anni migliori Guardiola delle cose meravigliose, però proprio come, anche come tipo di racconto da telecronista, secondo me il calcio un po' più kick and run, un po' più profondo degli inglesi, a me personalmente piace di più, diverte di più. Sì, qualche anno fa il modello più rappresentativo era sicuramente lo United di Ferguson, oggi, no, non da oggi, da qualche anno è sicuramente il Liverpool. Liverpool. Nick, buon lavoro per l'integrazione di Premier League, aspetto un manoscritto che lo inserisco direttamente in fondo. Beh, più mi svuotate le librerie e più ci sono possibilità che ci siano delle seconde, terze edizioni, integrazioni, tutto bravo. Quanto. Mi piace, andate. Andate e moltiplicatevi. Moltiplicate le copie vedute. Moltiplicate le copie. Gli scontrini, esatto. Ciao Nick, grazie. Buona giornata a tutti. Allora, fermiamoci un istante, poi abbiamo un grande ospite. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Ma Arthur è un giocatore del Barcellona, mi sembrerebbe veramente brutto se io mi mettessi a parlarne. Non mi è piaciuto quando l'allenatore del Barcellona ha parlato di Pjanic, perché Pjanic è un mio giocatore in questo momento, e quindi siccome non mi è piaciuto quello, io non voglio parlare di Arthur nella maniera più assoluta. Intanto, questo era Sarri. Intanto vi racconto in diretta cosa sta succedendo qui, perché c'è Giuseppe Cruciani che è entrato con la maglia del Liverpool a recuperare il caricatore del cellulare, me l'ha appoggiata sulla sedia accanto, grazie Giuseppe, siamo entrambi fan dei Reds. Stefano Colantuono, perdonami, grazie per l'intervento, perdonami la digressione. Ciao mister. Buongiorno a tutti, salve. Senti, stavamo parlando del Liverpool, sì. È il calcio anche per te, è il calcio più bello che c'è, quello del Liverpool, da vedere in questo momento al mondo? Io sono sempre dell'idea che chi vince fa le cose più belle, perché poi quello rimane. Al di là di questo, il Liverpool fa un bel calcio, fa il suo calcio, fa il calcio che deve fare, e quindi dire il Liverpool, complimenti. In questi anni ci sta dimostrando che è la squadra più forte che c'è nel panorama calcistico, sicuramente quello europeo. Sai che mi è arrivato in questo momento un WhatsApp che mi scrive: sul piano del gioco il Liverpool vale quasi l'Atalanta. Sì, è vero, quasi, vero. Quasi. No, però ricorda Stefano, ricorda l'Atalanta come modo di giocare, no? Sì, sono similari le cose, magari cambiano in qualcosa, però sì, è poi quello, ritmo alto, la grande velocità. Sono squadre che aggrediscono, pressione. Sì, aggressività, insomma. Calcio verticale, bello. Sì, è questo, è quello. Il calcio è questo. Poi a volte l'Atalanta, magari il Liverpool ogni tanto comunque si abbassa un pochino per poi creare quelle fette di campo dove i vari Salamane, insomma, vanno a correre in quelle praterie, ma lo fanno apposta perché hanno questo tipo di giocatori qua che hanno bisogno di spazi, hanno bisogno di profondità. L'Atalanta è proprio invece esasperata nel pressing, viene a prendersi sempre altissimo, rischiando poi a volte anche qualcosa, vedi l'ultima partita con la Lazio, che poi hanno ribaltato chiaramente, come spesso fanno, però sono molto simili le filosofie. Ti dà quasi sempre l'idea di un ritmo, di un rischio calcolato, sì, sì. Comunque quello dell'Atalanta, più sì. Pier? Sì, assolutamente, no, ma sono può far sorridere il paragone, in realtà poi ricordiamo che l'Atalanta è ancora in corsa in Champions League e Liverpool no, quindi da questo punto di vista l'Atalanta non ha niente di meno, anzi, ma al di là delle battute il paragone ci sta, nel senso che sono due squadre che hanno appunto quelle differenze di cui parlava il mister, quindi soprattutto dal punto di vista del posizionamento in campo e del luogo dove avviene il pressing e della scelta del Liverpool, che non è quella dell'Atalanta, di rinunciare alcune volte, di abbassarsi un po' per poi sfruttare il campo e le ripartenze, però tutte e due le squadre innanzitutto hanno un'idea. E non sono tutte le squadre d'Europa ad avere un'idea così precisa e così consolidata. La mettono in pratica ed è anche l'idea comunque di un calcio molto bello, molto spettacolare. Questo non è un dettaglio, perché è vero quello che dice il mister, che alla fine chi vince ha sempre ragione, però riuscire a vincere con una estetica del gioco di un certo tipo è un valore aggiunto, no? Certo, è un valore aggiunto. Non deve essere mai fine a se stessa, cioè non è che Gasperini insegue la bellezza. Gasperini utilizza la bellezza e certi meccanismi consolidati per arrivare al risultato, però se vinci divertendo è meglio che se vinci non divertendo, scusate il momento la palisse, però è così. Dicevi Giovanni? Beh, e poi mi sembra che questo Liverpool, se andiamo avanti col parallelismo con l'Atalanta, cancelli quella sorta di idea che abbiamo tutti e che tu possa chiedere di correre a quei ritmi soltanto a dei giocatori giovani affamati e non a dei campioni, cosa che Liverpool invece ha. Mister Juventus, Lazio, Inter, mi leggi in anticipo questa corsa? Beh... Sembrerebbe, alla luce degli ultimi risultati, sembrerebbe ora appannaggio della Juventus, cosa che mi faceva pensare invece prima della ripresa, prima delle partite. Pensavo che la Lazio potesse effettivamente quest'anno fare qualcosa di impensabile. Invece la sconfitta con l'Atalanta credo sia stata una bella botta. Non so se farà ancora in tempo a recuperare ora la Juventus. Sono 4 punti. Non sono tantissimi, però la Juventus non credo che perderà molti colpi da qui alla fine, quindi ora i tifosi della Juventus sono autorizzati a fare gli scongiurati, però insomma, conoscendo un po' quella rosa, conoscendo quell'ambiente, credo che passi passi ne faranno voglia. Ma della partita della Lazio a Bergamo, Stefano, sì, tu che parte ti tieni? Perché io ad esempio continuo a immaginare che si sottovaluti il fattore Atalanta, cioè l'Atalanta può passare da 0-2 a 3-2 contro chiunque, e lo può fare, lo ha fatto tante volte, mentre non sono tanti quelli che sono in grado di andare per 40-50 minuti a giocare come ha fatto la Lazio a Bergamo. Allora il tema è: ti prendi il mezzo bicchiere pieno o vuoto? Perché se ti prendi il mezzo bicchiere pieno, in realtà 11 giornate con la Juve che abbiamo visto non è in condizione straordinaria, allentano l'idea che possa essere stato il break decisivo. Allora, il discorso è questo: intanto con l'Atalanta non puoi mai considerare la partita chiusa, neanche se chiudi in vantaggio di 2 reti, cosa che non è accaduta comunque perché era finita 2-1, non lo puoi mai pensare. Se andiamo a guardare lo storico dell'Atalanta, tantissime partite, però l'altra sera la partita sembrava indirizzata bene. Io avevo visto dal vivo la partita d'andata, ero stato a Roma all'Olimpico a vedere il Lazio Atalanta, identica al contrario, chiaramente. Sì, sì. Primo tempo 0-3-3-3, esatto, primo tempo Atalanta incredibile, ma fine del primo tempo non sapevamo cosa dire, secondo tempo è cambiato tutto, si è un po' ripetuta la cosa. Ora bisognerà vedere, secondo me, quanto è inciso sta sconfitta sul morale dei giocatori della Lazio riguardo quello che tu dicevi poc'anzi per un eventuale rincorso, un'eventuale ripresa della Juventus, che è vero non sta facendo cose strabilianti, però insomma la Polonia ha vinto bene, ha giocato anche bene, insomma ha ritrovato quei calciatori, in particolar modo Dybala, che in questo momento devono fare la differenza se vogliono vincere lo scudetto. Io per questo facevo questa considerazione. Però la Lazio è una squadra forte, secondo me. La Lazio è una squadra che può fare tutto, va anche un attimino giustificata, perché dopo il lockdown ha ripreso il campionato col peggior cliente che poteva capitare. Sì, certo. L'Atalanta è il peggior cliente, magari se fosse capitata un'altra squadra forse non staremmo a parlare di questo, ha sbagliato proprio il peggior cliente. Qui vedremo cosa sta facendo. Io dicevo che secondo me la Juve in un'occasione così ghiotta, boh, non so se ti fa rientrare ora, però ripeto, può accadere di tutto. Sì, ma speriamo fino in fondo. Io sono dell'idea di Giovanni, ero col mister prima della pausa, consideravo la Lazio favorita, oggi chiaramente almeno 4 è un pochino più forte questo discorso da fare, però aspetterei, perché veramente penso che appunto il fattore Atalanta non sia trascurabile. La Lazio è andata avanti 2-0, certo, poteva fare il gol del 3-0, poi l'Atalanta sicuramente è stata superiore, la Lazio ha palesato una certa difficoltà fisica di condizione, che secondo me è il vero punto interrogativo, perché la Lazio prima del lockdown aveva un grande vantaggio, cioè quello di giocare una partita a settimana, che per la rosa che ha, che non è profondissima, poteva essere l'ideale. Sì. Adesso qualche dubbio ce l'ho, però insomma io non credo sia finito il campionato, sono molto curioso di vedere la Lazio come reagisce domani sera, il calendario secondo me non è male, e poi secondo me quella data lì, il 20 luglio se non sbaglio, cioè quel lunedì può essere il momento decisivo. Vediamo qual è il distacco, certo. Invece che aveva una strada stretta l'altro giorno, un po' per i 2 punti persi, un po' per il momento in cui li ha persi, ma soprattutto per la prestazione, insomma abbiamo fatto un passo indietro. E con le spalle al muro è costretto a non sbagliare mai. Un'ultima cosa, Stefano, ti ha sorpreso il 3-3 dell'Inter con Sassuolo? Beh, sorpreso, il Sassuolo è una buona squadra, gioca un buon calcio, certo, ma sorpreso perché pensavo che l'Inter, avendo vinto il recupero, appunto. E avendo questa occasione ghiotta di riavvicinarsi in maniera sensibile alla vetta per giocarsi il rush finale proprio per lo scudetto, riuscisse a vincere la partita. E invece un po' mi ha sorpreso, sì, mi aspettavo che potesse vincere. È stato un risultato, ripeto, Sassuolo può fare qualsiasi cosa, però è quello che erano le possibilità che l'Inter aveva, il boccone era ghiotto, ma aspettavo completamente una vittoria. Certo, vediamo anche abbastanza, vediamo qualche sbavatura difensiva che per le squadre di Conte non è usuale. Grazie mister, a presto. Grazie, a voi, grazie lavoro, davvero Stefano Antuano. Ciao Pierluigi, saluto anche te. Mi tengo Giovanni con cui andiamo a parlare di quello che c'è sotto la punta dell'iceberg del calcio, che su cui stiamo danzando, divertendoci, eccetera. Però sotto, sugli altri sport, ci sono problemi veri. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24 800 24 00 24. Mister Gente e Pierpardo vi aspettano. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading, vi presenta Tutti convocati. Allora Giovanni Capuano, noi ci stiamo divertendo molto, siamo molto felici che sia ripreso il calcio, ci stiamo divertendo molto guardando la punta dell'iceberg, ma dicevo prima di fermarci che i problemi veri sono quelli della parte che sta sotto, nell'iceberg dello sport, dove tutto è fermo, dove mancano certezze su come si riprenderà, dove ci sono le bollette da pagare, dove stiamo attendendo un provvedimento fondamentale e strutturale che è ora allo studio e che è molto importante per il futuro di tutto lo sport italiano, calcio compreso, perché base Serie B, Lega Pro, eccetera, stanno guardando con attenzione a questo provvedimento sul credito d'imposta per le sponsorizzazioni. Sì, beh, noi l'avevamo anticipato, Carlo, no? Ne abbiamo parlato tanto in queste settimane. È chiaro che molta dell'attenzione si concentrava sul calcio, poi in realtà c'era tutto il resto, e tutto il resto avrebbe avuto un costo da sostenere per aiutare la filiera dello sport italiano a restare in piedi. Ecco, al governo si è sempre chiesto in queste settimane, lo aveva fatto anche il mondo del calcio, più che soldi la possibilità di riuscire a far ripartire questo volano. L'argomento di cui parliamo adesso, e parliamo ad esempio di basket e pallavolo, che sono due degli sport principi che stanno insieme al calcio, diciamo, tra il novero delle discipline di squadra in Italia, basket e pallavolo stanno chiedendo semplicemente questo, e cioè non soldi direttamente, ma la possibilità di farli girare e di aiutarsi in un momento che è di profonda crisi, anche se i numeri sono infinitamente più piccoli rispetto a quelli del calcio di Serie A. Allora noi ci facciamo raccontare quali sono le posizioni degli sport che hai citato, ma che sono la locomotiva di un movimento che chiede aiuto, che riguarda tutto lo sport, tutti gli sport olimpici italiani. Umberto Gandini, presidente della Lega Basket, nostro amico. Mauro Fabris, presidente della Lega Vole Femminile. Buongiorno a entrambi. Ciao Umberto. Buongiorno a voi. Buongiorno. Buongiorno. Allora, qual è lo stato dell'arte su questo provvedimento? E poi io vi chiedo, a partire da Umberto Gandini, di far capire a chi ci ascolta qual è l'importanza di questo provvedimento che ha lo studio del governo, che però deve essere, ci auguriamo tutti, licenziato in tempi brevi, con esito positivo. Ma, intanto siamo nella fase di elaborazione e di analisi degli emendamenti presentati in Commissione Bilancio. E siamo arrivati sostanzialmente alla stretta finale per poter poi arrivare alla discussione in aula, che penso ci aspettiamo essere intorno al 3 luglio. Eccetera. Il tempo è tiranno, perché questo è proprio il momento in cui le società devono decidere se fare le iscrizioni, come farle. Noi nel basket abbiamo già avuto più manifestazioni di quanto sia importante questo intervento, che è sostanzialmente un intervento che viene a favorire l'investimento degli imprenditori, del tessuto economico-sociale che sostiene lo sport, nel mio caso professionistico, comunque dilettantistico di alto livello, per poter avere un vantaggio nel continuare a sostenerlo. Lo sport italiano è ancora basato sul campanilismo, sul mecenatismo, sulla volontà di investire di piccoli, medi e grandi imprenditori, spesso e volentieri locali, che utilizzano lo sport come veicolo di promozione sociale, di inclusione, eccetera, e che in un momento in cui hanno grandissime difficoltà a livello industriale, a livello imprenditoriale, a seguito della pandemia che abbiamo attraversato, che forse in alcuni casi stiamo ancora attraversando, ecco, non vedere neanche uno stimolo, un aiuto, un sostegno da parte del governo affinché continuino la loro attività di mecenatismo spaventa molto. Certo, certo. Pistoia nel basket ha scelto l'autoretrocessione, squadre di A2 a cui ci siamo rivolti per poter salire in A1 in questo momento eccezionale hanno lamentato la mancanza di interventi in tal senso per favorire il reperimento di risorse dal loro tessuto economico. Insomma, penso che il grido d'allarme sia stato lanciato in tutti i modi. Sì, quali sono Mauro Fabris, i rischi? Poi lascio la palla a Giovanni Capuano, che di queste cose sa molto. I rischi nel caso in cui non venisse approvato in tempi brevi, perché non si tratta di dire vabbè, ma adesso vediamo, poi magari lo facciamo più tardi, no? Perché ci sono delle scadenze, delle iscrizioni ai campionati da fare. Se non venisse approvato ora questo provvedimento sul credito d'imposta, quali rischi incontrerebbero gli sport olimpici italiani? Ma i rischi che noi abbiamo descritto nella ricognizione che è stata fatta, insomma, tra più di 200 società su quello che sono le intenzioni rispetto ai prossimi campionati, ed è stato certificato che avremo seri rischi, insomma, di avere delle perdite importanti, innanzitutto per lo sport in generale. Io, quando si parla di numeri grandi o piccoli, non è esattamente che le realtà di cui stiamo parlando rappresentano numeri piccoli. Il calcio rappresenta numeri grandi perché fa fatturato, perché eccetera, ma se poi parliamo di sport e di sport di base, mettete insieme tutto ciò che rappresentano appunto la pallavolo, la pallacanestro, il calcio minore o altro ancora, poi riparliamo di numeri. Allora, rispetto a questo, il governo non può rimanere del tutto assente, del tutto insensibile. Noi sentiamo parlare di soldi per il fondo per lo sport, sentiamo parlare di soldi destinati a questo o a quell'altro, ma in verità a quello che sono gli sport, o meglio le discipline di eccellenza, in questo caso le Serie A o altro, insomma, del basket piuttosto che, non è previsto nulla. Io dicevo ieri al presidente della Federazione Pallavolo Italiana, la federazione non fallisce, non può fallire, è un ente pubblico ed è mantenuto dalle risorse comunque pubbliche attraverso sport e salute e contributi diretti al governo. Qui rischiamo di fallire società letteralmente di base che hanno portato lo sport italiano ai massimi livelli. Parlo per la pallavolo femminile di Serie A, siamo titolati dei tre titoli europei, del titolo di campione del mondo per club in questo momento, e il rischio vero è che noi da, insomma, almeno un 10% di società possono scomparire già nella Serie A, perché i nostri presidenti attendono questo provvedimento per presentarsi dagli sponsor. Aspettano proprio di giorno in giorno, sono ossessivi nelle loro richieste di avere notizie, perché dice, se andiamo dagli sponsor e diciamo guarda, almeno una parte può essere fiscalizzata, magari incontriamo quella disponibilità. C'è questa possibilità, certo. Oggi no. Allora, lo Stato da questo punto di vista qua deve fare due conti in tasca, noi li abbiamo fatti e abbiamo visto che converrebbe questo provvedimento rispetto anche a contributi a pioggia non ben identificati, e comunque è un modo concreto per sostenere non lo sport in generale, no, lo sport di eccellenza, che sono le eccellenze che noi abbiamo appena finito di dire. Sì, è chiaro, è tutto molto chiaro. Continuiamo a parlarne subito dopo il traffico. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Vitale online e ci guadagni online. Sfatiamo questo mito, si guadagna con il sito. Aziende o negozianti, gli affari sono tanti. Vitale online e ci guadagni online. Il tuo sito non era online, adesso hai Italia Online. L'e-commerce era un tabù, ma se lo fai vendi di più. Creiamo il tuo e-commerce, guadagni subito e paghi tra tre mesi. Vai su italiaonline.it. Tutti convocati. No, perché Giovanni, abbiamo vissuto fianco a fianco tutto questo lungo periodo difficilissimo. Quante volte abbiamo detto si tratta di sostenere il sistema sport, ci sono posti di lavoro a rischio, non può essere il palliativo dei 600 euro a pioggia così una tantum che può risolvere il problema. Adesso siamo in un momento in cui bisogna risolvere quel problema. Guarda, Roberto Gandini lo sa perché il tema lo abbiamo affrontato più volte. Io voglio dire tre cose rapidissime. La prima, che il tempo in questo caso è parte del problema, perché chiaramente, e lo ha spiegato benissimo il presidente Fabris, se tu questa cosa la fai entro un paio di settimane è un conto, se la fai a inizio settembre non serve a nulla o quasi. La seconda è che questa crisi ha un costo ovunque e non si può liquidare lo sport d'eccellenza con un'alzata di spalle. Io insisto, e tu lo sai, noi abbiamo battuto molto su questa cosa. Nelle prime settimane c'è stata una grandissima leggerezza, il dibattito era incentrato intorno al calcio, ma in realtà si parlava di tutto lo sport. Adesso basket e volley stanno chiedendo una misura ragionevole in tempi rapidi e certi per poter ripartire. Io non ne faccio una questione di sport più importanti o meno importanti quando dico dimensionalmente a numeri diversi, ma voi immaginatevi se si fosse proseguito con la leggerezza delle prime settimane, si fosse chiusa la Serie A con danni per 800 milioni di euro, un miliardo. Ecco, io credo che quello che stanno attraversando e chiedendo con forza giustamente in questo momento i due presidenti che abbiamo in trasmissione spieghi perfettamente perché chi ha potuto rialzarsi con le sue gambe è giusto che lo abbia fatto e perché adesso si debbano concentrare tutte le forze per fare delle cose ragionevoli per consentire agli altri di farlo, perché lo sport d'eccellenza non è un passatempo. Va detto con forza, non lo è il calcio, non lo è la pallacanestro, la pallavolo, non lo è nulla di tutto quel movimento che poi ci riempie d'orgoglio in giro per il mondo e crea decine, migliaia di posti di lavoro. Certo, Umberto? Sì, no, non solo questo, anche il ragionamento fatto sul calcio, poi la Serie A, che come abbiamo già detto più volte è diversa dal resto del sistema, si regge sui diritti televisivi. Tutto l'altro sport italiano si regge sostanzialmente su sponsorizzazioni e investimenti di capitale da parte di mecenati e imprenditori. Su quest'area non si è fatto nulla. E sulla patrimonializzazione delle società si è stato fatto, sulla patrimonializzazione delle aziende si è stato fatto, ma non è stato esteso al settore sport. Come hai detto prima, è un'attività imprenditoriale esattamente in linea con tutto il resto. È un comparto che non ha ricevuto interventi sostanziali se non contributi a pioggia. Su 100% del fatturato del basket, l'80-85% arriva dalle sponsorizzazioni. Questa è l'area in cui tutti i presidenti chiedono un intervento, proprio per quello che ha detto il presidente Fabris. Non posso andare a parlare con l'azienda X e chiedere di mettere soldi nello sport come ha fatto nel passato, quando ha altre problematiche, ha necessità di mantenere in piedi l'attività e non ha nessun incentivo statale a farlo. Quindi aspettiamo, ragioniamo, perdiamo opportunità, perdiamo competitività, abbassiamo livelli. Insomma, questo credo che non sia la strada giusta. C'è anche il rischio concreto e serio di società che non avranno, in caso contrario, in caso non venga approvato questo provvedimento, le possibilità di proseguire la loro attività, no, Mauro Fabris? Assolutamente sì, cioè, insomma, come diceva il presidente Gandini, noi abbiamo gran parte di questi club stanno in piedi per il contributo diretto degli sponsor, perché non è la biglietteria e non sono i diritti televisivi quelli che salvano le squadre di eccellenza che difendono appunto il nome dello sport italiano in giro per il mondo, sono esattamente gli sponsor, sono esattamente le proprietà. Entrambi, c'erano emendamenti diversi in questo senso presentati, chiedono non l'elemosina, chiedono tra l'altro interventi a costo zero per lo Stato, anzi probabilmente lo Stato ci guadagna. La mia esperienza, questo è bene sottolinearlo, Presidente, questo è bene sottolinearlo, quando si dice ragionevoli, si dice questo. No, non è ragionevole, si dice a costo zero e la mia esperienza dice che tutti i provvedimenti di defiscalizzazione hanno portato maggiori incrementi alle casse dello Stato, perché è evidente che c'è tutta un'emersione, parliamoci chiaro, no? Anche di attività che a quel punto vengono messe appunto a... di fronte a possibilità di avere ulteriori stimoli e entrate per le casse dello Stato. Quindi da questo punto di vista siamo nella solita posizione, diciamocelo chiaramente, del Ministero dell'Economia che fa i conti da ragioniere, infatti è la ragioneria che fa questi conti, e cioè fanno il conto dei mancati incassi. Non fanno il conto, ma i mancati incassi rispetto alle voci certe, cioè quanto hanno incassato negli anni precedenti da. In questo momento qua devono fare i conti di quanto perderebbero se, che è totalmente diverso, ma è un'impostazione che la ragioneria dello Stato e il MEF non entra in testa. E però tutte le volte che sono fatti, pensate ai crediti per le ristrutturazioni aziendali o quello che sta capitando per il bonus, per gli eco bonus, insomma addirittura il 110%, no, è previsto, e i risultati dicono esattamente il contrario. Non capire questo, rifiutarsi di applicare questo allo sport, significa essere veramente ciechi e non capire, al di là del danno alle società sportive, alle fatiche fatte per mettere in piedi queste eccellenze, non significa non capire nemmeno qual è il vero interesse dello Stato in termini di cassa. Sì, sì. No, ma a uno che ci sta ascoltando verrebbe in mente di domandare, ma perché, non so se anche a te Giovanni, allora se ci sono tutti questi pro, se la situazione è delicatissima, importante e urgente e non ci sono contro, ma che cosa stanno aspettando? Su una questione di miopia? Ma no, io credo che sia una questione culturale e ci siamo imbattuti in questa questione culturale più volte negli ultimi mesi, e cioè lo sport si fa fatica a considerarlo come un settore industriale, fanno fatica anche quelli che dovrebbero difenderne gli interessi direttamente al governo, abbiamo scoperto in questi mesi, e invece è così, cioè il presidente Fabris citava questo tipo di interventi dati a 1000 settori economici ed è legittimo, giusto, perfetto, perché questo è un paese che deve ripartire. Ecco, smettiamo di considerare che la pallavolo, il basket, il rugby, tanti altri sport siano semplicemente una palla che viaggia da una parte all'altra, e consideriamo che siano dei settori economici. Se la mettiamo da questo punto di vista, poi viene più semplice fare il conto, come ha fatto il presidente Fabris, e cioè immaginare che abbiano bisogno non di soldi a pioggia per alcune decine di migliaia di persone, ma abbiano bisogno di un intervento strutturale che serva al sistema per reggersi da solo e per poter ripartire. L'ultima cosa rapidissima, allo stato dell'arte come immaginate la ripresa? Ricomincio Roberto Gandini, perché leggevo la pubblicazione del calendario di Eurolega, andavo a vedere dove giocherà l'Armani, che farà la prima in casa a metà ottobre con Real Madrid, tutto molto bello ma tutto molto lontano. Come immagini la ripresa in questo momento? Purtroppo con grande attenzione alla realtà e all'evoluzione della situazione. Noi abbiamo sin dall'inizio dell'epidemia in Italia seguito tutte le indicazioni che sono state date, sospeso il campionato, poi arrivare a malincuore anche a doverlo annullare, e adesso stiamo progettando la ripartenza. Noi abbiamo un intervento sul campo che sarà la Supercoppa italiana del 50° anniversario fondazione della Lega, che è a fine agosto, e evidentemente confidiamo che tutti i segnali positivi che stiamo avendo dall'aspetto sanitario continuino. Però non siamo nel momento in grado di entrare in un dibattito come quello che per esempio che è stato successo sulla riapertura delle scuole. È inutile parlare oggi di come sarà la nostra attività a settembre, perché oggi non conosciamo i dati di settembre, e confidiamo che l'esperienza ci guiderà ad avere una riapertura dei palazzetti. Che è fondamentale in questi sport. Presidenti, io vi ringrazio e noi siamo qui a disposizione per raccogliere notizie positive, ci auguriamo tutti insieme. Grazie Alberto Gandini e Mauro Fabris. Grazie davvero. Giovanni, con te ci sentiamo domenica, tutti convocati weekend. Sì, 17-19. Domenica 17-19 abbiamo in preparazione una bella puntata. Ci saremo tutti. Intanto ringrazio Claudia Schiattone e Anita Panizza, oggi hanno lavorato redazione e assistenza in regia, Valeria Bernardi, Gianmarco Ferronato, ciao a tutti. Venga, è stato una montagna russa. Ciao, Radio 24. Saluti.